America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vi ripropongo un passaggio importante nella solennità dello Stato dell'Unione, il discorso alla nazione del presidente Barack Obama e comunque di tutti i presidenti americani ogni anno. Sentiamo. And tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union, because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. Barack Obama, che parla di Europa, parla di un progetto straordinario, quello di creare un'area comune, un'area di libero scambio transatlantica fra Stati Uniti e Europa. È un progetto che automaticamente eleva l'Europa a grande interlocutore unico, non l'interlocutore spezzettato. Attraverso questo progetto Washington immagina di poter avere un unico numero di telefono con cui poter chiamare l'Europa. Il progetto va avanti, ambizioso dal punto di vista economico, dovrebbe avere un impatto straordinario, essere un moltiplicatore di crescita, tutto è positivo. E dunque, mentre questo progetto va avanti e mentre si parla di queste ambizioni, che succede? Cosa ascoltano gli americani? You're searching for Cyprus after the country reached a last minute bailout deal with international lenders. Il problema di Cipro, come dire, senza così voler sembrare scortesi con nessuno, è il problema un po' della pulce e dell'elefante, perché il fatto che Cipro possa sconvolgere i mercati mondiali e creare dei dubbi sulla tenuta dell'Europa ovviamente è il sintomo di un malessere europeo che va ben al di là di quello su cui i mercati si sono soffermati finora. Il problema Cipro diventa un problema per noi, per l'Italia. C'è timore che possano esserci delle corse agli sportelli, le autorità internazionali cercano di gettare acqua sul fuoco, ma questo dualismo resta. Da una parte Cipro, la pulce e l'elefante, dall'altra lo straordinario grande progetto di andare avanti in un'unione commerciale transatlantica, che secondo me sarebbe un passo in avanti straordinario. Ecco, di questo e di altre contraddizioni, perché poi vediamo l'Europa che si muove per conto suo a livello di singoli stati, quando la Francia per esempio interviene in Africa, oppure proprio ieri quando il ministro degli esteri Giulio Terzi dà le dimissioni perché non è d'accordo col presidente del Consiglio sull'atteggiamento che si è tenuto nei confronti della restituzione dei Marò all'India, oppure Amanda Knox che deve rientrare in Italia. In fondo stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. Com'è per discutere queste contraddizioni intrinseche all'Europa, ai microfoni di America 24, Vittorio Zucconi, amico, collega, editorialista di Repubblica. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a te Mario, buongiorno a tutti. L'America è un po' perplessa perché da una parte vuole allargare l'abbraccio con l'Europa, tutto sommato appoggia l'Europa, vorrebbe vedere un'Europa solida, con un reale potere, con un numero di telefono vero, come diceva Kissinger, da chiamare, e propone anche questa unione commerciale. Dall'altra si inciampa su Cipro. Cipro è la versione finanziaria, economica e commerciale della famosa storia della farfalla del Mato Grosso, che se sbatte le ali muove una foglia, la foglia muove l'albero, l'albero muove la foresta, piove e poi c'è neve su New York quattro giorni dopo. Cipro di per sé non è nulla, lo sappiamo tutti, ma è il sintomo di un'Europa che non sa più che cosa sia. Se sia una società di mutuo soccorso nella quale bisogna girare come dei pompieri, o se invece qualcosa che vuole crescere e vuole soprattutto unificarsi. Cipro è la dimostrazione del fatto che l'Europa, non avendo una politica fiscale comune, permette a una piccola nazione di diventare una calamita per enormi capitali, chiamiamoli pure speculativi, ma la speculazione è andare a cercare rendimenti migliori, non è che sono per forza malvagi, e altri che invece hanno una tassazione pesantissima. Quindi l'America non capisce, il vero problema degli americani nei confronti dell'Europa è non capire che animale sia questa Europa, dove voglia andare, cosa voglia fare di sé, come del resto non lo capiamo neanche noi. Ma secondo te, andando avanti, questo dialogo io credo che proseguirà probabilmente, ma c'è anche un sospetto nei confronti della Germania. Insomma, il vero braccio di ferro fra Stati Uniti e Europa è stato un braccio di ferro fra Washington e Berlino su come gestire la crisi. Washington ha aperto le caterate monetarie, quindi ha inondato l'America di stimoli fiscali, di politica monetaria accomodante. L'Europa invece è rimasta sotto sotto il torchio, più tasse e niente politica accomodante per volere della Germania. Su questo si è dibattuto. E il nuovo conflitto transatlantico, secondo te, Washington, Berlino, e chi vince alla fine? Io ho paura che perdiamo noi e che non vinca davvero nessuno, anche perché, come hai detto tu, l'America ha imboccato una strada che si sta rivelando, nonostante il sequestro, nonostante i tagli obbligatori del bilancio pubblico, che poi finiranno anche qui qualche patelacchio, insomma si è avviata verso una strada che sembra quella della ripresa. Guardiamo soltanto l'aspetto del settore immobiliare, che è in fortissima crescita, e la casa è sempre la bandiera segnamento della situazione economica americana. La Germania abbiamo anche il problema terribile delle elezioni in autunno della Merkel, quindi c'è una componente elettorale, perché la Germania continua ad avere l'ossessione dell'inflazione, di pagare i conti per i lazzaroni d'Europa, non solo i lazzaroni come straccioni, ma anche i lazzaroni come quelli che mangiano le cicale e non fanno niente. E questa è la vera contraddizione di fondo dell'Europa. Come quei matrimoni che dice: beh, voi sposatevi che poi l'amore verrà, invece l'amore non è venuto, e siamo qui a continuare a litigare senza sapere dove andare, perché se quella fosse la politica, basta, la si decide, magari seguiamola. Invece la stessa Germania poi un giorno fa la cattiva, il giorno dopo è costretta ad allentare un po' i cordoni della borsa, perché non vuole vedere sfasciare quell'euro dal quale tanto ha tratto beneficio. Quindi è giusto, se io fossi un americano che guarda l'Europa, direi, come in un famoso show televisivo di anni fa, vuole per cortesia la vera Europa alzarsi, perché finora abbiamo visto solo delle finte Europe. Ecco, ma a un certo punto sembrava che ci dovesse essere una voce comune, totale, in materia di politica estera. In realtà vediamo che poi ognuno dei paesi mantiene in modo totalmente autonomo la sua politica estera. E proprio ieri abbiamo visto in Italia una crisi, nel senso che il ministro degli esteri Giulio Terzi ha dato le dimissioni, ha giocato al rilancio, ha detto che lui non avrebbe mandato i Marò indietro e dunque si è dimesso contro una scelta del governo. Ecco, come la leggi questa situazione? Ha fatto bene, ha fatto male? Terzi ha fatto un atto dovuto a questo punto. Ha fatto bene, ma ha fatto qualcosa che doveva fare. Ma anche questo, vedi, come il caso di Amanda Knox, che adesso dovrebbe tornare in Italia per l'ennesimo processo, non si capisce bene poi come, forse se non torna potremmo arrestare l'ambasciatore americano, chiuderlo a Villa Taverna o in Via Veneto, come hanno fatto gli indiani con il nostro povero ambasciatore Mancini. E di nuovo la cosa che dicevamo dell'Europa, cioè ridotta al mini cosmo italiano. Ma che cos'è l'Italia? È un paese che ha un governo o non ce l'ha? Chi decide la politica estera? Il Quirinale, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri? La giustizia come si comporta? 19 anni per condannare non definitivamente Dell'Utri. Al di là di ogni giudizio su Marcello Dell'Utri, ma 19 anni per non arrivare ancora nemmeno a una sentenza definitiva. Che giustizia è? Che politica estera è? Che governo è? Che Italia è? Poi pretendiamo anche che vengano grandi investimenti dall'estero per aiutarci a uscire dalla crisi. Sarà molto difficile, perché sono figure, non individualmente figure barbine, ne ha fatte tante anche l'America di figure barbine in politica estera, però non c'è il senso di una direzione comune di un paese sul quale gli altri possono contare in un senso o in un altro. Ecco, su una vicenda simile a quella dei Marò, l'America come si sarebbe comportato? Ma attenzione, perché abbiamo avuto per esempio il famoso caso del Cermis. L'America stabilisce sempre che si rivolge a giudicare lei i propri militari, addirittura delle clausole di esclusione dalle norme internazionali quando va a fare imprese come in Afghanistan o in Iraq. Ma il vero problema dei Marò non è tenerli o restituirli, è che erano tornati con l'impegno di rientrare in India. Perché se avessero detto fin dal primo giorno ce li prendiamo noi, li giudichiamo noi, a quel punto sarebbero stati gli indiani a dover chiedere l'estradizione, che nella nostra Costituzione è proibita, perché in India esiste la pena di morte, quindi c'era un caso sostenibile davanti alle corti internazionali. Ma non si può fare l'italienata di dire: vado a fare comprare le sigarette e poi non mi faccio più vedere. È questo il problema. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio dedicarla a Motown. Ieri sera a Broadway c'è stata l'anteprima di un nuovo grande colossal musical, appunto Motown, dedicato a questa esperienza musicale che nasce nel 1959 a Detroit ed è un'etichetta discografica il cui nome è composto da Motor Town, la città dei motori. Quindi nasce a Detroit, la fonda Barry Gordy e da lì una gran quantità di artisti finiscono per essere lanciati proprio da Motown. E dunque in omaggio all'anteprima di ieri su Motown vi propongo un grande artista lanciato da questa casa discografica, Stevie Wonder, con uno dei suoi più grandi successi, My Sherry Amour. My Sherry Amour, lovely as a summer day. My Sherry Amour, distant as the Milky Way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!